in primo piano. Buongiorno, buon sabato, buon Ferragosto da Giulia Crivelli. Spero che siate tutti più o meno in vacanza, più o meno rilassati. Allora c'è forse più tempo per leggere, approfondire un po' i settimanali, i magazine, i mensili che sono usciti nei giorni scorsi, che magari soprattutto chi ancora ha lavorato in questa settimana pre-Ferragosto non ha avuto tempo di sfogliare. E comincio allora da How to Spend It, che è il magazine del Sole 24 Ore, che è in edicola ancora per tutto il mese di agosto. Lo potete chiedere insieme appunto al quotidiano. La copertina è una bellissima foto di un tornante con un motociclista che affronta questo tornante. Il motociclista è un motociclista un po' speciale, il giornalista televisivo Corrado Formigli, che ha percorso la Roma-Bologna a bordo di una Ducati a 162 cavalli, e da qui il titolo del reportage, proprio scandito dalle 7:30, al momento in cui è partito da Roma, corpo a corpo con 162 cavalli. Per gli appassionati di moto naturalmente, ma anche forse per darci un po' il sapore di quanto siano speciali i viaggi, soprattutto in estate, fatti a bordo di una motocicletta. L'Espresso, uno dei due news magazine italiani, in edicola da ieri, e lo trovate appunto per tutta la settimana. Questo numero di Ferragosto è quasi davvero monografico, dedicato alla storia di copertina che è La vita condivisa, ed è un dossier su quella che gli americani chiamano sharing economy, e che qui viene tradotta in modo, secondo me, giusto, La vita condivisa. E il bello di questo dossier, che ripeto inizia a pagina 39 dell'Espresso dopo tutte le rubriche settimanali e continua praticamente per tutto il numero, il bello è che tocca non i soliti aspetti che ormai conosciamo, cioè il car sharing, lo scooter sharing, il bike sharing, ma anche tantissimi altri settori, quindi il lavoro, le banche, i viaggi, i consumi, la musica e la mobilità, il sapere, ma anche la moda. Sapete che si possono per esempio affittare le borsette per magari per una o due sere, ma anche l'educazione, la religione, i rapporti di coppia. Ecco come la sharing economy sta cambiando la società. E vi segnalo in particolare all'interno di questo dossier un'intervista fatta da Antonio Carlucci a Jeremy Rifkin, che è un economista americano, uno un po' che è un po' a metà tra l'economista e il futurologo. Ha fatto tante previsioni, non tutte si sono rivelate esatte, però forse come tanti appunto futurologi o economisti che cercano di fare previsioni a medio lungo termine, se non altro ci dà tanti spunti di riflessione. E allora gli chiede Antonio Carlucci: Jeremy Rifkin, la sharing economy è un fenomeno mondiale o il suo sviluppo è ancora limitato all'Occidente? E la risposta è abbastanza sorprendente: è universale, come si può leggere in uno studio condotto dalla Nielsen in oltre 40 nazioni, dove sono state fatte ricerche attraverso centinaia di interviste. Oggi la sharing economy è un fenomeno affermato negli Stati Uniti e in Europa, ma la grande sorpresa che viene dallo studio Nielsen è l'entusiasmo che si coglie nei paesi dell'Asia e del Pacifico. Al primo posto, con il 93% di approccio favorevole verso l'economia dello scambio, è la Cina. E chiede Carlucci come lo spiega. Quello che pensavamo solo poco tempo fa, ovvero che i cinesi fossero più interessati a seguire il modello tradizionale della rivoluzione industriale del XX secolo, che pone al centro delle relazioni umane l'acquisto e la vendita di beni all'interno di un mercato capitalista, si è rivelato non del tutto esatto. Non intendono certo abbandonare quel modello, ma lo scenario della sharing economy suscita interesse. Credo che la ragione sia nel DNA culturale degli asiatici, che li vede predisposti, anche per ragioni religiose legate al confucianesimo e al buddismo, all'economia dello scambio. Loro sono molto meno individualisti degli occidentali e più propensi a legarsi ai valori collettivi che si creano all'interno delle loro comunità. Beh, insomma, con tutto quello che è successo nella settimana scorsa sulle borse cinesi, con la svalutazione della moneta locale, vediamo che insomma la contraddizione tra l'abbracciare un modello capitalista e poi magari di nuovo statalista, perché queste svalutazioni sono veramente delle mosse decise in questo caso dalla Banca Centrale, dal governo, ma non sono certo mosse, diciamo, da libero mercato delle monete. Ecco che vediamo che appunto c'è questa, molto interessante osservare come si evolve il modello economico cinese. E vi dicevo, nel dossier dell'Espresso si affronta anche la questione dello sharing delle religioni. L'articolo è affidato a Vlodek Goldcourt: prendete e mangiatene tutti, e la domanda è: che cosa hanno in comune le tre grandi fedi monoteiste? Quali valori e linguaggi? Le riflessioni in questo articolo di un vescovo di un alcuni imam di un rabbino. Passiamo al Panorama, l'altro magazine italiano. Qui, come spesso accade, c'è una donna nuda in copertina, anche se poi le parti più sensibili sono coperte come da due grandi post-it gialli su cui c'è scritto: sono come ti aspettavi, che cosa succede a rimorchiare in rete di tutto, noi l'abbiamo provato. E appunto c'è poi questo servizio che inizia a pagina 47 e scopriamo per esempio che sono 90 in milioni le persone nel mondo che hanno scaricato una app, quindi un piccolo programma per il computer o anche per lo smartphone, per il dating, per trovare degli appuntamenti. Di questi 90 milioni, 3 milioni sono italiani. Il 66% delle persone che appunto frequentano o scaricano queste app di dating sono uomini, e la fascia d'età più rappresentata è quella dai 25 ai 44 anni, sia per gli uomini sia per le donne. Ma vi segnalo anche una intervista a Giovanni Minoli, che gli ascoltatori di Radio 24 conoscono benissimo, un'intervista fatta da Stella Pende, la trovate a partire da pagina 58, intitolata "Per salvare la RAI fate come Marchionne". Il tema principale naturalmente è quello della RAI, non questa settimana ma la settimana precedente, lo ricorderete, è stato rinnovato il CDA della RAI con la vecchia legge Gasparri, perché il governo Renzi non è riuscito a far approvare una nuova legge per governare la RAI. Scusate il lapsus, non è che il governo voglia governare la RAI, non è stata approvata una legge per dare una nuova forma alla governance della RAI. E allora Giovanni Minoli interviene su quello che invece è certo, cioè questo nuovo CDA, e gli chiede Stella Pende cosa dire delle nuove nomine. E risponde Minoli che siamo davanti a un evento epocale per la RAI, perché sia il direttore Campodall'Orto sia la presidente Monica Maggioni conoscono il prodotto, cioè sanno davvero bene che cos'è la televisione. Insomma, dopo lustri che hanno visto su quelle poltrone uomini della politica e della finanza, i professori di scienze e signori di banca, ecco finalmente la sicurezza che la parola Ampex non potrà più essere scambiata dai prescelti come la marca di una supposta. Siccome non spiega Minoli che cos'è questo Ampex, e io nella mia ignoranza diciamo non lo sapevo, allora vi preciso, per chi come me non lo sapesse, che l'Ampex è quel registratore magnetico di immagini su un astro, quindi uno dei molti termini tecnici che giustamente un giornalista che lavora in televisione deve conoscere, ma che, sottolinea Minoli, forse in passato, ricorderete la RAI dei professori, ma anche la RAI dei politici puri, forse appunto non aveva questi tecnici. Gli chiede ancora Stella Pende: ma c'erano in lizza anche altri nomi che sul prodotto potevano dare garanzie? Bruno Vespa, Lilli Gruber, Barbara Palombelli, Caterina Caselli, Minoli, puntini puntini. Ti fermo, risponde Giovanni Minoli. Minoli è narciso, prepotente e dice quello che pensa. La Gruber è brava ma lavora su un'altra rete, mentre la Maggioni non ha mai tradito la madre Rai. Vespa ha rifiutato? Avrei fatto come lui, perché rinunciare, come dire, al buon riscontro economico che già percepisce col suo mestiere in cambio di una carica discretamente pagata che vede un futuro nebuloso? Ultima domanda che vi leggo, ma poi l'intervista prosegue anche per le due pagine successive. Se dovesse fare un ritratto della Rai, oggi quale sarebbe? Quello di una balena spiaggiata che ha perso la rotta, attaccata più volte da orche feroci, è comunque sopravvissuta, oggi però è moribonda, quindi i nostri eroi dovranno fare in fretta a riportarla in acque sicure. 6 mesi di tempo, altrimenti le orche della burocrazia mangeranno anche loro. E questa è appunto l'opinione di Giovanni Minoli. Un'altra bella intervista, sempre da Panorama, a Andrea Illi, l'amministratore delegato dell'azienda di caffè. Il titolo: gusteremo il caffè come si fa col vino. Difesa dei produttori poveri, sostenibilità ambientale, qualità. Andrea Illi spiega come l'Italia cerca di cambiare il mondo dalla tazzina, che giura, anche naturalmente citando degli studi medici, allunga la vita. L'intervista di Sergio Luciano, che per esempio chiede a Illi: ma il caffè può essere un prodotto sostenibile? Certamente, le normali pratiche agronomiche e industriali hanno un profilo più che accettabile sia in tema di emissioni sia per quanto riguarda il consumo di acqua. Inoltre la produzione non lascia residui tossici. L'unico impatto ambientale quindi è rappresentato dall'energia necessaria a produrre il packaging. Oggi abbiamo circa una volta e mezzo i consumatori di caffè che avevamo una quindicina di anni fa. E l'ultima domanda, trovate questa intervista alle pagine 24 e 25 di Panorama. Questa rivoluzione positiva è tutta di ispirazione italiana. Veniamo vissuti come il paese del caffè, ma abbiamo ancora molto da fare. Bisogna puntare sulle specialty, perché si tratta di un mercato da 16 miliardi di dollari. Questo lo si può fare attraverso le sinergie con il governo, oltre che tra aziende del comparto food. Bisogna aumentare l'export alimentare italiano dagli attuali 38 miliardi a 55. Per farlo abbiamo bisogno di un piano straordinario per il Made in Italy. E questo era appunto Andrea Illi su Panorama. Vi passiamo al venerdì. Lunedì, il settimanale in edicola invece con La Repubblica. Qui la cover è dedicata a due cantanti, definiti gli ultimi romantici, e sono Gianni Morandi e Claudio Baglioni, che sono in partenza per un maxi tour che appunto li vedrà sul palco insieme. Quindi alla vigilia del maxi tour Piero Melati ha intervistato i due cantanti, che hanno raccontato, hanno guardato un po' al passato, ma soprattutto hanno anche raccontato come sarà questo tour. Vi leggo la risposta, che appunto è a quattro, è a due voci, su come si crea la musica. È vero che si cerca sempre la perfezione come un'ossessione? Che cosa che colpisce tanto nel profondo chi in fondo ascolta solo una danza di sette note? E Baglioni, per esempio, risponde: Verdi scriveva mentre moriva qualcuno di famiglia. L'artista si sente più decisivo per il mondo che non per chi gli è più vicino. È vero, c'è un'ossessione. E Morandi invece risponde: di canzoni ne avrò cantate 300, ma 8 sono rimaste inchiodate nella testa della gente. Le avrò dovute riproporre almeno 3000 volte. Cosa ne decreti il successo è un mistero, ma è vero che ogni giorno che Dio manda in terra pensi sempre che la canzone più bella la devi ancora scovare e non smetti di cercarla. Speri sempre che qualcuno scriva una My Way, famosa canzone di Frank Sinatra, per te. Poi capisci che questo è anche il modo per non fermarsi mai, per andare avanti. E chiede Piero Melati: com'è cambiata la musica? Risponde Baglioni: oggi non c'è più il tempo di ascoltare. Se nei primi 20 secondi di una canzone non succede qualcosa, il produttore non te la passa. Oggi un paio di minuti di introduzione non vengono tollerati. Agli inizi degli anni 70 c'era più attenzione alla forma canzone, c'erano gli editori musicali, che ora non ci sono più. Erano dei mediatori, ti accompagnavano, ti incoraggiavano, ti consigliavano persino ascolti e letture. Erano deputati a coltivare il tuo talento. Oggi, se sbagli un disco, ti buttano via. E Morandi invece risponde: abbiamo avuto una fortuna meravigliosa a vivere quei tempi. E poi Baglioni aggiunge un'ultima cosa: abbiamo piantato solidi chiodi in quei 50 anni della musica che sono rimasti unici. Come vi dicevo, l'intervista doppia voce è di Piero Melati, e la trovate a partire una lunga intervista, La storia di copertina, a partire dalla pagina 14. E poi c'è un commento di Michele Serra, sempre su questo duo, che si è appunto, forse in passato si sono anche sentiti rivali, però adesso partono per questo grande tour insieme. E come Michele Serra, anche lui riflette su com'è difficile diventare un classico, forse a volte quando si è ancora nel pieno delle proprie forze, anche se non più giovanissimi, forse non si ama nemmeno essere definiti classici, però davvero alcune canzoni di Gianni Morandi e di Claudio Baglioni classici lo sono già. E allora Michele Serra, che un pochino più giovane forse di loro, ma più o meno coetaneo, racconta anche un suo ricordo personale delle canzoni di questi due grandi artisti che lui ha amato di più. Ci lasciamo un attimo per il meteo e ci ritroviamo subito dopo. In primo piano. Ancora buon Ferragosto da Giulia Crivelli per la seconda parte di questa rassegna che oggi dedichiamo ai settimanali, ai mensili. Tra l'altro vi ricordo che domani i giornali non saranno in edicola, ci ritroviamo poi per la lettura dei giornali lunedì con Elisabetta Fiorito a partire dalle 7:15, dei quotidiani intendo. Ma eravamo sui settimanali, allora dopo il venerdì di Repubblica abbiamo Sette, che è invece il settimanale in edicola ogni venerdì con il Corriere della Sera, e la cover è dedicata a una cantante, ma mentre il venerdì sceglie Morandi e Baglioni in partenza per il nuovo tour, la Sette ha scelto invece Emma Marrone, che ha solo 31 anni ma già una discreta, anzi una lunga carriera alle spalle, iniziata in realtà, ci spiega Edoardo Vigna, quando aveva solo 9 anni e si è appassionata allo studio della chitarra. L'intervista la trovate poi a partire da pagina 26, appunto, di Edoardo Vigna. Il titolo è L'estate di Emma. Altro che gossip, io so che la vita può cambiare in un attimo e ora credo nei piccoli piaceri: cibi sani e un calice di vino. C'è una piccola fotostoria che ripercorre appunto la sua carriera, iniziata, come dicevo, idealmente quando aveva 9 anni e si è appassionata di chitarra, continuata poi suonando con il complesso amatoriale del padre, che di professione faceva l'infermiere ma suonava con amici nel Salento soprattutto in estate, e continuata poi, sono sicura la maggior parte di voi lo sanno, con la vittoria al talent show Amici e poi con una vittoria al Festival di Sanremo nel 2012, a cui poi ha partecipato anche come valletta di eccezione insieme ad Arisa l'anno successivo. Ma vi leggo allora per esempio questa risposta, perché Emma Marrone, pur così giovane, giovane, ha già avuto una, ha dovuto confrontarsi con una malattia, con il cancro, che ha superato. E allora scrive Edoardo Vigna: è evidente quanto sia autentico il desiderio di autenticità di Emma Marrone. E qui la, appunto, apre le virgolette: il male, come lo chiamo io, è un pensiero che ti rimane, dice la cantante. Ogni anno devo sottopormi alle visite di controllo, prima ogni 3 mesi, poi ogni 6 mesi. Il pensiero che si riformi c'è sempre, e infatti è tornato, mi sono dovuta rioperare 2 anni fa. La parola cancro mi dà fastidio, quando sono arrabbiata dico sta merda. Ti fa capire che nella vita niente è dovuto, niente è scontato. Ora sono una che vive di attimi, ho imparato a non negarmi le cose che mi fanno stare bene da un giorno all'altro. È proprio un attimo, scrive l'intervistatore. Un brivido che vola via, canta Vasco, e lei appunto aggiunge: ecco perché non mi frega niente di finire sui giornali con il bikini, voglio godere la vita, ho imparato anche a essere più buona con me stessa, faccio delle cazzate, sbaglio, ma si vive una volta sola, e ho deciso di sviluppare piaceri sani, tipo i percorsi di degustazione come a Bolgheri, con il vino, con la mortadella tartufata, chicche che fanno bene all'anima, e va bene anche un chilo in più. Le idee sono chiare anche sul lavoro. Mi piacciono le sbavature, perché è nelle imperfezioni che si concentra la vera personalità, anche nella musica. Nel disco nuovo ci sono canzoni che ho cantato di getto e non ho voluto ricantare, e forse usciranno così. Buona la prima. Non amo quando vogliono correggermi tutto nei dischi, non è umano, lascio gli errori, perché l'errore è vero. Sempre su 7 vi segnalo un bellissimo reportage che fa parte in realtà di una serie che 7 fa ormai da 5-6 numeri, dedicato ai grandi parchi nel mondo. Questo di questa settimana di Matteo Sametti è da un parco di Nairobi in Kenya, gestito adesso dalla fondazione Sheldrick, che prende appunto nome da questa famiglia inglese. È un orfanatrofio per giovani elefanti che vengono accuditi come bambini in attesa di essere adottati, proteggendoli così dai cacciatori d'avorio e consegnandoli al loro futuro, che è anche quello di guardiani dell'ecosistema. La vita di altri animali e di molte piante dipende da loro. E racconta alla fine di questo reportage la figlia della fondatrice di questo orfanatrofio, che è Angela Shelnick, figlia appunto di Daphne. Dice: oggi l'orfanatrofio è gestito da Angela. Nata a Nakuru, quindi già nata in Kenya, la città dei fenicotteri, era molto brava a scuola e sarebbe potuta andare all'università di Cambridge nella natia Inghilterra, ma decise di interrompere gli studi per sposarsi. Il suo contributo più importante è stato mettere a punto la formula del latte per i piccoli elefanti, che rimane l'alimento principale fino al quarto anno di vita. Non è stato facile trovare la ricetta giusta e molti piccoli sono morti per problemi digestivi, ma dopo vari tentativi Daphne ha trovato il mix giusto, aggiungendo latte di cocco a quello in polvere. Come spesso accade, chi fa le cose con passione prima o poi raccoglie. Nel 2000 è arrivato per lei il dottorato honoris causa in medicina e chirurgia veterinaria dall'Università di Glasgow. E c'è anche tutta una scheda che ci spiega come, se abbiamo il tempo, anche naturalmente le risorse, perché sono viaggi impegnativi anche dal punto di vista economico, per visitare questo bellissimo parco che si trova appunto in Kenya. E vi ricordo che appunto è dal numero 28 di 7 di questo anno, e questo numero di 7 è il numero 33, quindi come dicevo 5 numeri, che c'è questa ricognizione dei grandi parchi del mondo. Vi segnalo anche da 7 un articolo che trovate a pagina 98 che tocca un tema di cui si è occupata anche Irene Zerbini nella sua trasmissione Spunti di Vista la settimana scorsa, che è quella della seconda lingua, la seconda lingua che ci dà una marcia in più. Ci racconta Elena Meli, che è una delle giornaliste del Corriere della Sera che più spesso si occupa di temi medici, facendo un'ottima opera di divulgazione, che i bambini, anche piccolissimi, sono avvantaggiati dallo studio di un secondo idioma, ma che questo può avvantaggiare anche gli adulti di qualsiasi età, perché ci rende tutti più sani ed efficienti. È proprio una vera e propria ginnastica mentale. Naturalmente per i bambini il consiglio è per esempio quello di una babysitter straniera, di una scuola dove si insegnino più lingue o di viaggi all'estero, ma ci sono anche tanti altri sistemi. Per esempio per noi adulti io trovo molto efficace guardare i film in originale, magari con i sottotitoli o nella lingua del film originale o nella propria lingua in italiano, oppure sfogliare, anche solo sfogliare delle riviste in inglese, guardare i titoli, oppure come ha raccontato anche Betta Fiorito questa settimana, ascoltare le canzoni, tradurre le canzoni dei Beatles per esempio, se uno è interessato all'inglese. Ma passiamo, così troviamo una nota un pochino in più di leggerezza, e Vanity Fair di questa settimana, che a Milano e Roma esce mercoledì ma nelle altre città giovedì e appunto resterà in edicola ancora per qualche giorno, la copertina è dedicata, questa volta abbiamo visto i cantanti su Venerdì e su 7, invece Vanity Fair è la copertina dedicata a Alba Rohrwacher, che è una delle più promettenti attrici, giovani attrici italiane. Sarà protagonista a Venezia al prossimo Festival del Film di Venezia, del Cinema di Venezia, Venezia che inizia alla fine di agosto e l'ha intervistata per Vanity Fair Sara Failaci in un lungo reportage dove tra l'altro, come spesso accade per queste interviste su Vanity Fair, c'è anche all'interno una sorta di servizio di moda, perché per corredare appunto l'intervista ci sono anche servizi fotografici in cui all'attrice o attore di turno viene anche offerta la possibilità di appunto vestirsi con le più diverse mise di stilisti più o meno famosi. E allora ho scelto appunto di leggervi questo virgolettato che riguarda un po' l'aspetto fisico, la moda, il rapporto col proprio corpo. Dice Alba Rohrwacher: gli altri mi chiedono del mio fisico particolare, ma sono loro a mettermi davanti a uno specchio a guardare qualcosa che non ha mai veramente avuto la mia attenzione. Non ho mai messo in mostra il mio corpo, ma neanche l'ho mai negato. Litigavo con i miei genitori per frequentare ragazze che erano molto più grandi e più donne di me, con un fisico molto più prorompente, però non cercavo in nessun modo di assomigliare a loro, anche se le vedevo alle prese con i primi fidanzati, mentre io nemmeno ero considerata dai maschi. Non facevo nulla per cambiarmi, per diventare più femminile. Mi sembrava di volermi avvicinare a loro, di voler condividere, ma nella realtà, quasi inconsapevolmente, rimanevo distaccata. Amici, chiede Sara Failaci, ne avevo, ma il disagio non mi abbandonava, non è passato neanche quando sono andata a Firenze a studiare medicina. Idealmente mi sembrava un mestiere bellissimo, nella realtà quell'ambiente duro e competitivo mi stava uccidendo. La sera passavo davanti a un teatro, ho iniziato a fare qualche lezione e finalmente tutta la tensione che avevo dentro ha trovato uno sbocco, una valvola di sfogo. E oggi appunto Alba Rohrwacher ha decisamente trovato la sua strada, e tra l'altro è una delle protagoniste, per questo parlavamo del Festival di Venezia, del film di Pier Giorgio Bellocchio che verrà presentato appunto in concorso a Venezia e che si chiama Sangue del mio sangue. Vi segnalo anche da Vanity Fair un'intervista a un altro attore, qui è Tom Cruise, che è in uscita con il prossimo Mission Impossible, dove tra l'altro c'è anche un tocco di Made in Italy sul Sole 24 Ore di ieri venerdì. Ci era raccontata la storia da parte di Chiara Beghelli di questi occhiali che avrà Tom Cruise sul set, che sono fatti da un marchio assolutamente artigianale che si chiama LGR, ma questa è ancora un'altra storia, però una nota così che mi piaceva ricordare. Qui Tom Cruise, che torna un po' ai grandi colossal con questo film, Simona Siri l'ha incontrato e ci racconta, mentre la caccia alla prossima signora Cruise continua, perché pare che appunto Tom Cruise voglia sposarsi, voglia risposarsi perché è già stato sposato, Tom si gode il nuovo successo, lasciando a noi il compito di analizzare le dinamiche di un ritorno così inaspettato e promettente, con la consapevolezza che 30 e più anni di Hollywood non sono solo frutto di una coincidenza, si chiama professionismo e perseveranza e massicce dosi di quella che gli americani chiamano star quality, ovvero quella cosa che non si insegna, o ci sei nato oppure niente. Quella che alla domanda di Jimmy Fallon sul perché, a 53 anni Jimmy Fallon è il host di un famoso show americano, del perché a 53 anni si ostini a voler fare in prima persona le scene d'azione più pericolose rischiando la pelle invece di farle fare a uno stuntman, gli fa allargare le braccia e rivolto verso il pubblico gli fa rispondere: perché per voi è divertente e io sono qui per farvi divertire. Bentornato Tom, neanche lo sapevamo ma un po' ci sei mancato. E questa appunto l'intervista a Tom Cruise su Vanity Fair. Vi segnalo poi il numero di Internazionale speciale che dura 2 settimane, è uscito venerdì scorso ma lo trovate in edicola ancora per tutta questa settimana. Come ogni estate è dedicato al viaggio e con reportage, foto da tutto il mondo e soprattutto racconti che in qualche modo hanno a che fare col viaggio. Allora vi leggo l'editoriale di Giovanni De Mauro che appunto si concentra sul significato di questa parola. Qualche tempo fa abbiamo pubblicato un articolo di Chibundo Omuzo, scrittrice nigeriana poco più che ventenne, si intitolava Vogliamo quello che volete voi, e a un certo punto diceva: per secoli è stato un fatto normale della vita, se non ti piace il luogo dove vivi, se non ti piacciono i tuoi vicini, se ti sei annoiato della tua piccola città e sogni disperatamente un'avventura, se desideri l'oro di Eldorado, il tè della Cina, le spezie dell'India o gli esseri umani dell'Africa occidentale, se non hai mai voluto fare altro che scoprire le sorgenti del Nilo, prepari lo zaino e ti metti in cammino verso il Nilo, verso l'ignoto. Sono tante, qui finisce la citazione, scrive Giovanni De Mauro, sono tante le ragioni per cui si viaggia e non c'è un viaggio uguale all'altro. Si viaggia per sfuggire a una guerra, per cercare lavoro, per sconforto, si viaggia per turismo e per piacere, per insoddisfazioni, per ragioni familiari, si viaggia da soli e in compagnia, in gruppo, organizzati o improvvisando, si viaggia con il corpo o con la fantasia. Ci sono i viaggi religiosi e quelli culturali, c'è chi viaggia per scoprire, per capire, per incontrare e per chi per conquistare, c'è chi viaggia per ritrovare trovare, posti, amici, parenti, chi viaggia nello spazio, chi nella mente, chi nel tempo. Ci sono i viaggi di studio, quelli per imparare e quelli per distrarsi, ma per quanto possano essere diversi i modi di farlo, tutti in fondo viaggiamo per un motivo: stare meglio, migliorare seppure impercettibilmente la nostra condizione iniziale di partenza. Benvenuti nel numero dei viaggi, e ci introduce così quelli che sono poi tantissimi, perché è un numero molto corposo, e vi segnalo in particolare una storia che a me è piaciuta moltissimo su quella consuetudine così complessa da decifrare, che sono le mance. Ed è un reportage di un magazine inglese che si chiama Eon, si intitola Quanto lascio, e che ci spiega appunto come a Tokyo la mancia sia un segno addirittura di maleducazione, mentre a New York è quasi obbligatoria, con anche percentuali che da noi non sono così alte. A volte credo sia capitato, chi ha viaggiato magari in America, che se non si lascia la mancia adeguata si viene inseguiti dal cameriere, perché i camerieri hanno uno stipendio in generale molto basso, quindi si affidano per integrarlo alle mance, si viene inseguito dal cameriere che ci chiede: ho fatto qualcosa di sbagliato, c'è qualcosa che non va, come mai una mancia così bassa? Ecco appunto, in questo articolo, a partire da pagina 46, le abitudini legate agli extra hanno a che fare con il rispetto e con il lavoro che si dà e con il valore che si dà al lavoro, secondo Julian Baggini, autore di questo articolo. Un altro interessantissimo incontro, nato da un viaggio dalla Francia agli Stati Uniti, di Emmanuel Carrère, che è uno dei più famosi scrittori contemporanei francesi, che è andato a incontrare quello che lui chiama l'uomo dei dadi, che è un psicanalista, si chiama George Cockcroft, e vive vicino a New York. E fin da quando era adolescente, ci racconta lo scrittore francese, lo conquistò la storia di questo psicanalista newyorkese che prendeva tutte le sue decisioni lanciando un dado. E così, dopo 40 anni, è andato finalmente a incontrarlo, e qui ci racconta la storia di quello che lui definisce l'uomo dei dadi. E vi segnalo invece poi un mensile, questa volta Airone, il numero di agosto, la cui copertina in realtà è dedicata ai test, a quei giochi che è molto divertente, credo, fare sotto l'ombrellone. Quindi il titolo Scopri chi stai giocando, dove si annunciano appunto queste 25 pagine interne di test psicologici, quiz e giochi. Ma in realtà io sono stata molto incuriosita da un articolo intitolato Più donna di una donna, che prende lo spunto da un film appena uscito che si chiama Ex Machina, e la protagonista è una giovane attrice danese talentuosissima, perché conosce già 4-5 lingue, e infatti in questo film recita in inglese, che non è la sua madrelingua. E si tratta di Alicia Vikander, che forse alcuni ricorderanno come coprotagonista di Anna Karenina. E lei è la protagonista di questo film, si chiama Ava, e è un robot con una intelligenza artificiale. E qui Airone prende lo spunto per far un po' spiegarci a che punto è la ricerca sull'intelligenza artificiale, e ci spiega anche che cos'è il test di Turing, il famoso matematico che mise a punto questo test che dovrebbe farci capire se un computer, per quanto programmato a dare le risposte più simili a quelle che darebbe un essere umano, è veramente una intelligenza artificiale, cioè ragiona un pochino come ragioniamo noi. E questo lo trovate su Airone. Vi segnalo poi Dove, anche in questo caso un mensile, e qui si può un po' sognare, perché è un numero dedicato ai 10 viaggi da fare una volta nella vita. E quello che a me personalmente affascina di più, ma in realtà si toccano tutti i continenti, America, Polinesia, quindi Oregon in America, poi la Polinesia, la Namibia, l'Antartide, l'Iran, la Russia, la Cambogia, la Cina, il Perù e la Norvegia, quello che a me affascina di più è questo della Namibia, che si intitola Il leone che guardava passare i treni. E il giornalista Davide Scagliola ci racconta questo viaggio sullo Shongololo Express, che in lingua Zulu vuol dire mille piedi, che porta dalla Namibia a Cape Town in Sudafrica, un viaggio avventura fra carrozze d'epoca, parchi nazionali e miniere di diamanti, e incontri ravvicinati con tanti, tanti animali. Ultimissima segnalazione, ve la faccio dall'Economist in edicola questa settimana, in edicola da ieri. La copertina è dedicata, si intitola Le lezioni di storia di Xi, il presidente cinese, come la Cina sta riscrivendo il passato per controllare il futuro. Quello che però è interessante è l'editoriale del direttore, che spiega come, lo avrete forse letto o sentito da questa settimana, la finanziaria degli Agnelli ha la maggioranza, possiede la maggioranza della società che controlla l'Economist, e qui il direttore spiega: è il secondo cambio di proprietà nella nostra storia, ma non modificherà minimamente la nostra indipendenza. Era l'ultima segnalazione, ora c'è il traffico e poi ci ritroviamo per la rassegna stampa europea. Ancora buon Ferragosto da Giulia Crivelli.